E buonasera a tutti e benvenuti sulle onde di Radio Alma 101.9, mentre sono le 21 e 2 minuti e noi ci apprestiamo a iniziare questa trasmissione dei colori dell'anima che, come sapete, va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Buonasera a tutti da Rosanna e buonasera da Anna Maria, buonasera a tutti. Buonasera Anna Maria. Allora, stasera, quindi come sapete, ai colori dell'anima parliamo di un argomento che può essere, diciamo, di vario genere che interessa gli italiani che sono qui a Bruxelles, ma non solo gli italiani, perché come sapete ci potete anche ascoltare attraverso il web al sito della nostra radio, radioalma.eu. E da lì poi, sulla parte sinistra in alto, basta cliccare sull'icona dove dice, Radio Alma en direct e quindi potete appunto ascoltarci da tutto il mondo. Allora, per presentare l'argomento di questa sera, vorrei chiedere ad Anna Maria di leggerci un brano tratto da un libro ed è il libro appunto di cui parleremo stasera. Grazie. Esatto, io vorrei partire da una riflessione che è proprio all'inizio del libro. Parliamo di questo, l'integrità. L'integrità morale. Tutti nasciamo con la nostra integrità bella intatta, forte come una roccia, granitica e compatta. Nessuno può scalfirla. La nostra integrità morale, nessuno può portarcela via. Solamente noi abbiamo il potere di sgretolare questa roccia, una prerogativa che esercitiamo quando scegliamo di rinunciare all'onestà. Quando scegliamo il nostro mero tornaconto a scapito degli altri, quando non facciamo ciò che la nostra intelligenza emozionale ci consiglierebbe di fare e diamo invece ascolto solamente all'intelligenza razionale, l'intelligenza egoista, quella parte del nostro intelletto al servizio della convenienza personale, al servizio del nostro tornaconto. Quando rinunciamo all'onestà per la prima volta, perdiamo per sempre la nostra integrità morale, la nostra verginità etica. Dopo, qualsiasi porcheria ci sembrerà accettabile e se ogni tanto avremo qualche dubbio, ce ne serviremo solamente per alzare il prezzo. Allora, grazie Anna Maria e questo mi porta subito a parlare all'autore di questo brano e quindi di tutto il libro che si intitola appunto L'integrità, che è Massimo Burioni. Buonasera Massimo, Buonasera. nostro ospite in studio. Allora, intanto questo libro da quando è uscito? Da quando lo si può trovare? È disponibile sulle piattaforme di Amazon.it e di Mondadori.it e è stato pubblicato in seconda revisione a giugno di quest'anno. Quindi è da giugno, Sì. e mentre invece quindi si ordina solo da internet, non si trova fisicamente qui a Bruxelles. No, penso che, oddio, alla Piola probabilmente se uno lo chiede trova il modo Sì, di farlo vero, però sì, è. alla Piola Libri. Sì. Va bene, allora, dunque, questo libro, insomma, lo vedremo man mano, no, non è che adesso scopriamo tutto all'inizio. È un libro che tu hai scritto nel corso di un certo periodo della tua vita, che non hai scritto così di getto, giusto? Scrivere di getto è fatica. Penso che siano pochi gli autori quelli che scrivono di getto. Per scrivere qualcosa che abbia un senso c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di sedimentare, c'è bisogno di riflettere. Io, non essendo uno scrittore professionista, ho bisogno di più tempo degli altri, per cui quando mi metto a comporre un libro, un romanzo o una serie di racconti o anche un racconto singolo, ho bisogno di molto tempo. Allora, parleremo un po' in dettaglio di questo libro. Io propongo però già di mandare un piccolo brano musicale. Mi raccomando ai nostri radioascoltatori, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 oppure sul sito internet radioalma.eu. Ci ritroviamo fra pochi minuti dopo un brano musicale che vi spiegherò però dopo che l'ho mandato in onda, quindi fra pochi minuti. Ed eccoci tornati in studio dopo questo brano che è abbastanza insolito per la nostra trasmissione dei colori dell'anima, o perlomeno Anna Maria per le trasmissioni che facciamo noi, no? Sì, esatto. Come genere musicale, che non saprei neanche definire. Alternativo. Diciamo alternativo. Quando uno non sa cosa dire. Comunque, al di là della musica, mi piace invece sottolineare questa iniziativa, cioè questo brano che si chiama Rovina Power Until the End of the World, e tratto da un CD che si chiama Tutta Colpa di Beatrice, e questo CD quindi è stato realizzato da Musicisti Uniti Contro il Cancro, a loro volta appunto sponsorizzati dall'associazione culturale Ferfilò, che appunto spero di poter anche intervistare in una prossima trasmissione. È un gruppo che ha realizzato quindi questo CD, e quindi questa sera la trasmissione appunto sarà accompagnata dai brani di questi Musicisti Uniti Contro il Cancro, e realizzati appunto grazie all'attività dell'associazione culturale Ferfilò. Dunque, ritorniamo quindi all'argomento della nostra trasmissione, che potremmo intitolare, se Massimo ci dà il permesso, i diritti d'autore, la possiamo intitolare come il titolo del libro, L'integrità. Prego, prego. Siamo d'accordo? Sì, sì, hai tutti i diritti. Allora, adesso Anna Maria si è preparata tutte le domande da farti. No, non le ho preparate, però ho letto attentamente il libro. E l'hai letto compiti, anche di recente. Che è già una bella cosa. Ho letto dall'inizio alla fine. E, in effetti in questo libro ci sono una serie di concetti cui ho preso qualche spunto a destra e manca. Però vorrei che ci spiegassi, Massimo, da che cosa parte questa integrità, che cosa intendi tu in tutta questa storia? Non la raccontiamo la storia, sennò no. Poi nessuno compra il libro. Insomma. Assolutamente vogliamo, d'accordo, no? Vogliamo, non lo raccontiamo. Incuriosire le persone che ci ascoltano, certo. No? E quindi è importante capire perché ci sono. Non è un trattato di filosofia, lo possiamo dire? No, per carità, non ne avrei le competenze, però nel suo piccolo un po' di filosofia la fa. Esatto. Sì, diciamo filosofia spicciola, però la fa. E l'integrità, il titolo parte da un concetto che secondo me accompagna il libro dall'inizio alla fine. È il concetto di integrità sia fisica che morale ed etica, e all'inizio ho voluto mettere appunto la definizione di integrità presa dal dizionario Treccani, dal vocabolario Treccani, e che parla appunto dei due tipi di integrità: quella fisica di una persona integra in tutte le sue parti, e dell'integrità etica e morale che fa riferimento all'onestà della persona. Perché poi il libro si svolge attorno al personaggio principale, che è Giovanni Bic, e al sospetto che Giovanni Bic non sia integro dal lato fisico, perché ha un problemino diciamo di virilità, e dal lato etico e morale perché viene sospettato di un atto disonesto sul lavoro, per cui di aver approfittato di soldi pubblici per convenienze personali. E Questo alone di sospetto che accompagna tutto il libro verrà poi svelato alla fine, si saprà se o no questo Giovanni Bic, se il sospetto era poi fondato o meno. Chiaramente la suspense va lasciata fino alla fine, non lo diciamo. E questo concetto di integrità accompagna il protagonista per tutte le vicende raccontate nel libro, e per cui ho pensato che come titolo, come dicevamo anche prima di venire in radio, fosse quello più adatto a descrivere il contenuto del romanzo, insomma. Sì, poi quello che ho notato leggendo il libro è che ci sono molti dialoghi c'è un'interazione fra diversi personaggi e sono proprio interazioni molto strette, non si parla in generale, sono proprio dei dialoghi fra amici, dei dialoghi. Quello che mi ha un pochino freddato, non è la parola esatta quella che voglio dire, però mi ha un po' fatto emozionato il fatto che veramente si parla di situazioni che esistono davvero qui a Bruxelles. Beh, delle circostanze, delle situazioni che pensavo fossero soltanto nei miei pensieri in realtà, e vederle scritte, ups, ma allora non è solo la mia impressione. Beh, va detto che il libro è ambientato principalmente a Bruxelles, per cui vivendo a Bruxelles e ambientando la storia principalmente a Bruxelles, mi sono preso la libertà di far riferimento a delle situazioni tipicamente bruxellesi, specialmente situazioni che coinvolgono un po' la comunità italiana a Bruxelles. Non tutta la comunità italiana, in parte, che fa parte, no, ci mancherebbe, di un gruppo, ripeto, magari mi ha colpito perché la conosco un po'. Mm-hmm. Forse qualcuno che non è all'interno di questo tipo, chiamiamolo, di giro, non potrebbe capire, perché sono situazioni tipiche di di una certa italianità di Bruxelles. Esatto. Esatto, questo volevo dire, non mi venivano le parole. Sì, poi comunque tutto va preso con il beneficio dell'inventario, il fatto che non è un reportage, per cui le cose che sono raccontate nel libro sono chiaramente filtrate dall'immaginazione dell'autore, di me stesso, e alcune situazioni sono messe, sono travisate per renderle più leggibili, più godibili e a scopo narrativo, insomma, sì, forse più accattivanti per il lettore. Non mi sono messo in testa di descrivere come sia la vita di certi personaggi a Bruxelles, assolutamente. Il tutto come da disclaimer, ogni riferimento a persone, fatti, situazioni reali ed esistenti è puramente casuale, insomma. Sono riferimenti a scopo narrativo. Sei consapevole narrativo. Che quello che stiamo dicendo adesso stimolerà un sacco di persone a comprare il libro? Magari qualcuno ci si riconosce. Saranno molti a essere curiosi, dire: ma chi ci sarà in questo libro? No, ma non mi sembra essere stato particolarmente cattivo comunque. No, assolutamente, ecco, sto parlando di situazioni che alcuni di noi vivono sistematicamente e che effettivamente sono così. Sì, no, poi l'altra cosa che va detta, secondo me, che il personaggio principale e il suo amico e co-protagonista del libro, sì, sono due funzionari della Commissione Europea, Giovanni Bick, un funzionario della Direzione Generale di Ricerca, e l'altro, Antonio, è un funzionario dell'Olaf, che è l'ufficio antifrode, che indaga appunto su questi presunti fatti di corruzione. E la cosa intrigante è che i due sono amici, uno indaga sull'altro, ma senza fargli sapere certi fatti che sono dietro le quinte. E allo stesso tempo c'è questo, spero di essere riuscito a rendere questo clima di amicizia un po' sfumata dal sospetto che entrambi hanno. Sì, si coglie perfettamente questo doppio ruolo. Questo doppio ruolo, e anche il fatto che non il personaggio principale, ma quest'altro personaggio che comunque è molto presente in tutto il libro, ha comunque delle sensazioni, anche un certo disagio. Insomma, sì, io molto ho captato disagio. Anche un certo disagio, perché comunque deve indagare su un suo amico, insomma, in determinate circostanze, che non è facile, e comunque ha il senso del dovere, quindi ho visto anche il senso del dovere di questa persona. Sì. Che però allo stesso tempo deve tenere nascoste all'amico alcune situazioni interne, in un certo qual senso, per metterlo più a suo agio e riuscire a carpire magari qualche informazione. E allo stesso tempo è un indagatore un po' stretto tra l'incudine e il martello. Spero che questo sia riuscito abbastanza evidente nella lettura, insomma. Sì, questo sì, l'ho capito anch'io. No, e comunque appunto è una posizione molto delicata quello di Antonio, quindi amico del protagonista Giovanni Bick, perché ovviamente i funzionari pubblici, proprio perché hanno un ruolo pubblico, possono essere controllati per il lavoro che fanno. Però appunto poi finisce che nella vita reale il controllore conosca il controllato, e magari questo è il caso della Commissione europea, ma potrebbe anche essere il caso di molte altre istituzioni. Ciò non toglie che l'integrità probabilmente è anche dalla parte dell'amico Antonio. Giusto, sì. Perché deve mantenere il suo ruolo, quindi lui che lavora da controllore non deve dimenticare questo e deve continuare a fare il suo lavoro malgrado l'amicizia, malgrado le conseguenze che questo può avere. Sì, diamine. Infatti volevo aggiungere prima il discorso sull'integrità etica riguarda appunto anche l'indagatore, anche il funzionario che indaga, perché allo stesso tempo si trova in una situazione in cui deve nascondere all'amico la realtà dei fatti per poter allo stesso tempo da un lato aiutarlo sperando che non sia effettivamente coinvolto, ma dall'altro ha poi tutti i dati che convergono invece verso una colpevolezza di Giovanni Bic, per cui lui si trova un po' in una situazione a un certo punto sul da che parte stare, che gli crea un certo disagio, sì. In effetti, sì. Allora, io approfitterei di questo momento per mandare un altro brano musicale, e sempre di questo gruppo, tratto da questo CD che si chiama Tutta colpa di Beatrice, Musicisti Uniti contro il Cancro, iniziativa realizzata dall'Associazione Culturale Ferfilò. Noi ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima e a dopo. Ed eccoci qui ritornati in diretta dopo questo brano, sempre tratto dal CD Tutta colpa di Beatrice, dei Musicisti Uniti contro il Cancro, e ritorniamo quindi alla nostra chiacchierata insieme ad Anna Maria. Come stai, Anna Maria? Sto bene, tu come stai? Bene. Hai fatto filone a settembre e adesso ti ripresenti qua a ottobre. Chiedo scusa, non è stato possibile. Sì, sì, no, ma ci siamo sentite, ci siamo scambiate i messaggi, ci hai ascoltato da casa, quindi già questo ci ha fatto piacere. Sì, va sì, bene. Io ho ascoltato, non vi ho perso neanche una parola. Va bene, invece stasera probabilmente ci sta ascoltando Fiorella. Quindi la nostra amica Fiorella. La salutiamo. Ciao Fiorella, ciao Fiorella. Buona serata. Buona serata. Allora Massimo, ritorniamo al libro L'Integrità, che è il terzo, quarto libro che scrivi? Terzo. Sì, sì. Dunque, io ho letto la 23ª primavera, e questo qui è la continuazione, nel senso che parla dello stesso protagonista, Giovanni Bic. Sì. E mentre invece l'altro 8 e mezzo, no, com'è che si intitolava? 8 più 1 no, 8 e mezzo. 8 e mezzo l'ha scritto qualcun altro sì. Di la verità, era il tuo voto in condotta. Sì, no, io ce avevo 10, allora, non avevo dubbi. 8 più 1 invece è di un genere diverso, perché io quello me lo perso. 8 più 1 è una raccolta di racconti, sono 8 racconti più 1. Ah, ho capito, sì, sì, sempre racconti scritti da te ovviamente. Diamine, originalissimi. Certo, originali, va bene. Allora, ritorniamo quindi all'integrità, che è appunto questo titolo molto particolare, quindi questo signore Giovanni Bic, un funzionario della Commissione europea. Io quando l'ho letto la prima volta pensavo, ma adesso se questo libro lo legge qualcuno che non lavora in Commissione europea, penserà che tutti quelli della Commissione rischiano di fare delle cose losche. Diamine. Tu no, te la sei fatta questa domanda? No, anche perché chiaramente è un'opera di fantasia che prende spunto da, come spesso le opere di fantasia prendono spunto da situazioni che potrebbero essere anche reali, ma che non necessariamente corrispondono poi alla realtà dei fatti, insomma. Nello specifico, in qualsiasi tipo di situazione in cui si maneggiano soldi pubblici, tanti soldi pubblici, il rischio che qualcuno ne faccia un uso personale o un uso disonesto esiste. In effetti, che altro diciamo la tentazione. La tentazione. Il rischio, fortunatamente, insomma. Beh, yeah, no, però, se voi pensate che l'Olaf, che è l'ente che controlla l'onestà dei funzionari e allo stesso tempo controlla anche l'utilizzo che nei vari stati membri viene fatto dei fondi pubblici europei, l'Olaf, se non mi sbaglio, nel rapporto che hanno pubblicato sul 2013 hanno recuperato più di 400 milioni di euro. Caspita. Che erano stati frodati all'Unione Europea. Hanno ogni anno migliaia di casi di indagini fatte, più che altro nei paesi membri, su un utilizzo fraudolento dei fondi dell'UE, e ogni tanto succede anche che mettano le mani su qualche funzionario disonesto. Questa seconda possibilità è molto più remota, perché si conta sulle dita di una mano negli ultimi anni, però è logico che esiste, insomma. Ovvio, ripeto, quando si parla di grandi cifre, c'è comunque sempre la tentazione. Nessuno è al riparo della tentazione. Assolutamente. E nel caso specifico del libro, diciamo che si parla di cifre relativamente piccole, però comunque importanti in certi contesti. Sì, infatti c'è un concetto, questo è alla fine, che volevo giusto di leggere magari un attimino, che dice: ci sono cose che ci appaiono incompatibili o semplicemente impossibili da realizzare allo stesso tempo, come per esempio fare qualcosa di disonesto senza danneggiare nessuno e anzi aiutando qualcuno in situazione di bisogno. Questo, insomma, diciamo che è una bella conclusione del libro su determinate sulle circostanze, insomma. Sì, si ritorna sul concetto di integrità, appunto, perché è un po' come in quelle commedie dove ci sono degli intrighi, dove c'è il furbastro che cerca il proprio tornaconto, poi alla fine gira e rigira, finisce che ci hanno guadagnato tutti e nessuno alla fine è stato truffato veramente. Un lieto fine, sì, diciamo. Sì, diciamo, c'è un lieto fine dove alla fine anche il truffatore poi risulta che poi in fondo non lo era, tutto quanto. Questo non è per anticipare il finale del libro, perché è comunque un'altra cosa, però nella mente del protagonista gira questo concetto, appunto, come riuscire a rendersi utili in maniera a volte anche discutibile. Ha un pochino però, la sindrome di Robin Hood, diciamolo. Sì, sì, sì, sì. Chiaro. Diciamolo. Allora, scusate, posso leggere cosa ci scrive Fiorella? Certo. Domani vado a comprare il libro. Mi piace il concetto di integrità, soprattutto in un grande apparato europeo dove tutto potrebbe essere nascosto e nascondersi. Ups, hai visto, hai fatto un'altra fan. Spero che le piaccia, poi magari mi fa sapere qualcosa. Va bene. Soddisfatto, rimborsato, mettiamola così. Allora, abbiamo commentato con Anna Maria che in questo libro c'è un sacco di roba, cioè ci sono molte situazioni successe in passato, successe a persone vicine. E alle volte sembra anche che queste situazioni non c'entrano l'una con l'altra. Allora, meglio, noi non abbiamo trovato il nesso. Sì, noi non abbiamo trovato il nesso. Cioè, abbiamo capito appunto quali sono i nessi, però ecco, magari un capitolo comincia descrivendo un fatto successo molti anni fa e sembra che da dove è sbucato fuori? Quindi com'è che ti è venuta questa idea di prendere questi vari spunti e di metterli poi insieme in un libro unico? Sì, a me piace mettere insieme cose che apparentemente diverse, che poi alla fine però danno un senso alla vicenda in generale. E mi piace far provare a chi legge questa sensazione di estraneità alla vicenda, che poi il lettore attento poi alla fine trova il nesso tra le varie parti del libro, anche se sembrano a volte staccate tra di loro. Nel libro si parla di fatti successi appunto a Bruxelles, il luogo, diciamo, la location principale dove si svolge l'azione. Poi ci sono dei flashback in cui il protagonista e il coprotagonista si descrivono dei fatti del passato. Alcuni sono successi in Africa e in Etiopia, una ventina di anni prima rispetto ai tempi in cui si racconta nel libro, e addirittura c'è un flashback che rivanga fatti succeduti ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Apparentemente queste diverse locazioni temporali sembrano non avere nulla in comune, però poi c'è un personaggio nel libro che è secondario, però poi alla fine leggendo bene risulta il thread union tra tutte queste vicende. Il signore anziano che è in Etiopia. Il signore che è sempre anziano. Sì, il signore è anziano nelle sempre. Le tue descrizioni. Perché... è anziano 20 anni prima e anziano 20 anni dopo. È un anziano di quelli. Cioè, ma io vorrei bionici. Sapere qual è il suo segreto. Ma vorrei saperlo anch'io. Perché oltretutto il signore in questione è uno dei pochi personaggi che esiste realmente. Ecco. Sembra quello meno probabile, ma è quello che esiste realmente. Perché lui ha veramente adesso ha 87-88 anni, caspita, penso, è ancora in ottima salute e pur non vivendo più in Africa come era solito fare fino a qualche anno fa, vive in Toscana, però insomma, è in ottima salute e si occupa ancora di certe vicende africane quando può, aiuta insomma una missione in cui ha lavorato per una ventina d'anni dopo che è andato in pensione. Questo signore, anche qui mi sono preso la libertà di inventare situazioni in cui poi effettivamente lui non era implicato, e però m'ha dato lo spunto per poter legare queste differenti vicende. E quella della Seconda Guerra Mondiale, si parla di una strage nazista compiuta in un paesino della Romagna. E il signore in questione è presente come giovane fascista che accompagnava come traduttore le truppe naziste in quella zona e che è testimone di questa strage. In Etiopia, sempre il signore in questione è coinvolto in un altro tipo di strage compiuta dalle autorità locali nei confronti di una tribù che dà fastidio allo sviluppo del paese, per cui questo personaggio, che è amico sia di Giovanni Bic che del funzionario dell'Olaf Antonio Benelli, è il personaggio che alla fine risulta presente in tutte le situazioni ed è quello che lega poi tutta la storia dall'inizio alla fine ed è quello che dà anche lo spunto poi a Giovanni Bic per fare quello che ha fatto, insomma. Ho capito, quindi sì. Lo stimola a prendere determinate decisioni. Sì, diciamo a fare che diventa un cose. Po' un punto di riferimento per. Però il concetto di integrità c'entra con questo personaggio oppure no? Perché questo che io non ho capito. Volendo sì, perché il personaggio è un personaggio abbastanza discutibile, perché lui era un fervente fascista quando era ragazzo, partecipa suo malgrado alla strage avvenuta nel 43, nel 44 in questo paesino della Romagna, suo malgrado perché lui non si aspettava la reazione dei tedeschi, anche se poi contribuisce alla strage calmando la popolazione dicendo non vi succederà niente, ma e allo stesso tempo si ritrova a distanza di tanti anni in Etiopia all'origine di questa seconda strage fatta nei confronti di questa tribù alla quale lui contribuisce pur rimanendo integro, perché lui comunque rimane integro nel suo modo di pensare e perché non, diciamo che involontariamente si trova a favorire, certo, queste due situazioni e come per espiare questa colpa di cui poi effettivamente non dovrebbe sentirsi colpevole, però poi lui si sente comunque colpevole. Beh, di è queste inevitabile cose, insomma, sì, sentirsi colpevole. E appunto per espiare questa colpa alla fine decide di rimanere in Etiopia, appunto di aiutare la popolazione locale tramite una missione, insomma lui, si prende un pensionamento e si mette a disposizione di questa comunità in maniera appunto da ritrovare quell'integrità morale che secondo lui aveva perso con questi due episodi, ecco, sì. Per cui anche questo personaggio in un certo qual modo è coinvolto nel concetto di integrità morale ed etica, sì. Capito, è tutto più chiaro. Intanto, intanto. Sì, è vero, anche se appunto io l'ho letto una volta e mezza e Anna Maria l'ha letto fresco, però insomma, però oddio, è bello anche poi che uno rimane con dei dubbi quando ha letto un libro. Noi abbiamo il vantaggio di avere l'autore, possiamo fare le domande. Certo. E quando ci ricapita una cosa del genere? Comunque, Massimo, non so se l'hai detto, ma è un giallo. Ma sai, è fatica da per descrivere. Me è un giallo. Quando mi chiedo, ma di che genere di romanzo si tratta? Non è un giallo, non c'è l'assassino. Non è un giallo vero e proprio, c'è un'indagine di polizia. Ma perché nei gialli c'è sempre l'assassino? No. Ma ci può essere, no, c'è l'assassino, c'è il ladro, c'è qualcuno. Ho capito. Perché c'è la vicenda che dà lo spunto per scrivere, poi tutto il resto è quella di questa presunta corruzione di funzionario. Per cui il giallo c'è nell'indagine che Antonio compie sull'amico. E c'è questo aspetto di giallo, di domande e risposte, di cercare indizi per capire o no se esiste la colpevolezza, c'è una denuncia che viene fatta, per cui c'è un aspetto di giallo che rimane poi fino alla fine, perché rimane il dubbio fino alla fine, fino rimane alla il fine, dubbio, per cui non, c'è questa tensione che si sente un po' nell'aria. Allo stesso tempo il libro svaria, perché poi appunto grazie ai flashback passa a descrivere cose che non c'entrano assolutamente niente, esatto, con quello che era successo fino, sì, al momento prima. E questo distrae, diciamo, un po' il lettore dalla storia principale, per poi riportarcelo comunque alla fine. Per cui sono dei vari pezzi distaccati di storie, sì, che convergono in un finale in cui, come in ogni giallo che si rispetti, c'è la spiegazione. C'è la spiegazione. Per l'ultima pagina per bisogna un certo verso, leggere fino comunque, alla fine. È un giallo, però non vi aspettate il tipico poliziotto con una vita familiare distrutta che indaga. Non c'è il commissario Montalbano. Però il finale è originalissimo, cioè è veramente una trovata geniale. Non so se da che cosa hai preso spunto, ma per me è estremamente geniale. Ovviamente non lo posso dire, perché guarda, ma io c'ero sorpresa. Arrivata prima di arrivare al finale, ho detto l'unica, sì, l'unica possibilità è questa. Avevi sospettato, sì, ma però no. Io lavoro aspetta ricerca. Anna Maria, che tu ci eri arrivata, ma determinate cose, adesso non so se stiamo parlando della stessa cosa. Io non c'ero arrivata, vedi, sono un po' fessacchiotta. Ma non è questo il punto, è proprio l'ultima pagina, come è scritta, sì, il biglietto che viene ricapitato, sì, sì, e questo che secondo me è una trovata geniale proprio da un punto di vista, non so come dire, letterario, stilistico. È vero. Confermo. Basta adesso un altro brano musicale, perché insomma ci stiamo quasi avvicinando alla fine, però appunto Anna Maria potrà fare le ultime domande dopo. Intanto non io faccio vi mando più, basta. Un altro brano faccio da solo, sempre dei Musicisti Uniti Contro il Cancro. Allora, ho fatto un po' di confusione tra i titoli e mi scuso anche con gli autori. Adesso comunque ascoltiamo il brano che si chiama Grazie a te, di Chiara Proni e Angela Maran, e ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete con noi. Allora, sono le 21:49 su Radio Alma e state ascoltando I Colori dell'Anima, che quindi restano tutti i colori con voi fino alle 22. Allora Massimo, abbiamo parlato del tuo libro L'Integrità, che è uscito quindi pochi mesi fa e che lo si può trovare su Amazon e su? E su Mondadori.it. Mondadori.it. E, come sai, noi quando facciamo la trasmissione chiediamo sempre agli ospiti a cosa gli fa pensare, a quale colore gli fa pensare l'argomento di cui stiamo parlando. Diccelo. Arancione spento. Allora, arancione bruciato, parliamo. Arancione spento. L'arancione spento, che è il colore prevalente sulla copertina del libro, perché c'è la foto di un paio di bicchieri di lambic, di Goetz, di birra, che nel libro si parla anche di birre e di Goetz, queste birre che si trovano solo in Belgio, di cui il protagonista è un fervente appassionato, come lo scrivente. È una cosa che ho in comune con Giovanni Bic. E il colore arancione che presenta questo tipo di bevanda, che mi scalda il cuore ogni volta che lo vedo. Beh, perché no? Insomma, sì, no, tra l'altro questa copertina, devo dire, ha molto gusto. La trovo maschile da una parte, dall'altra fa vedere e non fa vedere, un po'. Insomma, è ben pensata anche ma è una foto, è un collage che hai fatto tu? Com'è? Mia, sì, sì. Ah, completamente sì, tua? Sì, sì, sì. Bravo, quindi hai curato anche la grafica. Anche la grafica, insomma, faccio tutto io da solo. Tutto da solo. Va bene, ma tu, scusa, ho una domanda pratica. Quando scrivi libri ti rivolgi ad una casa produttrice, editrice? Sì, che sì, è sì. Sempre la stessa? No, dunque, questo qui l'ho pubblicato tramite una piattaforma su internet, uh-huh. Poi c'è la casa editrice che ha pubblicato il primo, la 23ª primavera, uh-huh. Che al momento sta visionando il manoscritto, per cui penso che probabilmente tra poco tempo verrà ripubblicato. Ah, ripubblicato da loro, editrice, ho capito. Sì, sì. Uh-huh. Diciamo che è un avant-première questo, uh-huh. quello che si trova adesso. Ma tu conosci molte persone che scrivono? E che scrivono libri in particolare? Persone che scrivono sono tantissime. Mm. In Italia c'è la passione, c'è questo luogo comune che si legge poco ma si scrive molto. Ah sì? Sì. Oh, questo non lo sapevo. Sì, che si scrivesse. Ed è tutto un fiorire di case editrici che però sono finte case editrici, perché basta che tu paghi e ti pubblicano qualsiasi cosa. Ah, ho capito. Io, se Dio vuole, ho sempre evitato questo tipo di raggiro, perché sì. Qua si tratta di un raggiro, sì. E per fortuna i due libri che ho pubblicato precedentemente li ho sempre pubblicati con case editrici comunque serie, uh-huh. senza pagare, come conto poi di ripubblicare anche questo in maniera diciamo completa. E conosco diversa gente che scrive. La maggior parte degli scrittori che conosco sono scrittori dilettanti, conosco anche qualcuno che non è scrittore professionista, ma che comunque è uno scrittore già comunque affermato e conosciuto, e devo dire che in effetti per riuscire a vivere facendo lo scrittore devi arrivare a vendere sopra le 30.000 copie di un libro, insomma, cosa che non è facile. In Italia probabilmente saranno una trentina gli scrittori che vivono solamente dei libri che producono, sì, sì. Sì, poi appunto bisogna avere una grande produttività e fantasia, perché... Vabbè, insomma, tu consiglieresti, che ne so, a una persona giovane di mettersi a scrivere se c'ha voglia, o la scoraggeresti? Ma è un consiglio praticamente inutile, perché chi ha voglia di scrivere scrive e basta. Sì, scrive comunque. Sì, sì, sì, sì. Poi magari non pubblichi, però scrivi, sì, è già una capito. Soddisfazione comunque, perché ti serve poi a mettere giù i tuoi pensieri, a riflettere, a rileggere magari qualche tempo dopo quello che hai scritto, e se lo trovi ancora valido è uno stimolo magari a continuare. Se trovi che invece siano cavolate, è un indicatore a lasciar perdere, insomma. Sì. Senti Massimo, visto che siamo proprio alla fine, vorrei che in un minuto ci parlassi di un'iniziativa che stai organizzando tu qui a Bruxelles, che c'entra col calcio. Uh-huh. Ah sì, sì, è la Coppa della Presidenza, torneo di calcetto che insieme abbiamo organizzato, che adesso è in pieno svolgimento. Abbiamo organizzato insieme ai vari club di sostenitori delle squadre italiane di calcio, e grazie a poi un'idea partita dal il presidente del Lazio Club, Federico Eichberg, il quale mi ha contattato prima dell'estate dicendo: ma si potrebbe organizzare un torneo di calcetto a scopo benefico, raccogliere soldi per un'iniziativa per aiutare la palestra di Pino Maddaloni a Scampia, che promuove attività sportiva per togliere i giovani dalla strada e dargli un po' più di futuro. E questo evento alla fine è risultato in una giornata di inaugurazione il 13 settembre, col passaggio delle frecce tricolori su Bruxelles, ha avuto un discreto successo. Abbiamo trovato qualche sponsor che ha contribuito alla raccolta di denaro. Stiamo continuando ancora a sponsorizzare questo torneo, appunto, per riuscire a raccogliere ancora più fondi. Invito tutti ad informarsi sulle attività del torneo sul sito, che è www.coppadellapresidenza.eu. Va o bene. A googolare Coppa della Presidenza, Coppa e delle viene, Presidenze, viene d'accordo. Subito fuori la nostra iniziativa. Va bene. È un'iniziativa meritevole e che merita l'attenzione del pubblico. Va bene, allora, quindi Coppa della Presidenza, e trovate quindi questa iniziativa che ci sarà anche a dicembre, il 16 dicembre. Intanto, Massimo, ti ringraziamo molto per essere venuto, ormai tu è già la terza volta che vieni ai Colori dell'Anima, grazie mille, ogni volta sempre con un argomento diverso, quindi questo denota quanti interessi hai, e alla prossima volta. E grazie a te, Rosanna, per avermi invitato, grazie a Anna Maria per la compagnia. Grazie, grazie. E grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie e buona serata a tutti. E naturalmente voi ritroverete I Colori dell'Anima lunedì prossimo alle 21. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.